slick chick. See, a neat trick. But she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey, clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. The hot heels on for the baby blues. Very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety clicker stitchy. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a stick chick. She's a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, yeah. You know she's a slick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah. A chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click it, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I got yeah, yeah. A crazy little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah. You know she's slick. Benvenute, benvenuti a Slick Chick 10 marzo, in realtà vi svelo che sto registrando, quindi non vi posso dire che ore sono perché ve lo direi, vi direi l'ora sbagliata. Radio Wombat ovviamente, radiowombat.net, il sito per ascoltarci in streaming, 13.59 la frequenza sulle onde mediocri, e già che ci sono, che me lo sono ricordata, vi do anche la casella di posta, postawombat@insiberia.net, alla quale potete scriverci o diretta wombat.vado.li per commentare, scrivere, chiacchierare con noi in diretta, anche se, come vi dicevo, adesso non sono in diretta e quindi voi potete pure scrivere, ma tanto io non vi leggo. Oggi parliamo a Slick Chick di Draghi, ma prima di farlo devo farvi ascoltare un'altra cosa, eccola qua. penso perché la settimana scorsa è morto David Johansen, l'avrete forse riconosciuto dalla sua meravigliosa voce, e questa era Franchette, una canzone che è tratta dal suo primo album dell'87, il primo album solista dopo New York Dolls. David Johansen era un personaggio meraviglioso, in realtà probabilmente persona difficile con cui entrare in contatto e con cui vivere, avercelo intorno quotidianamente, ma ci ha regalato un sacco di musica meravigliosa, sia con New York Dolls, perché New York Dolls, gruppo antichissimo in realtà, perché si parla veramente dei primi anni 70, ma anche un pelo prima, e erano in realtà proto-glam quasi, nel senso che ancora forse prima di, o comunque quasi in contemporanea, via con David Bowie, con Mark Bolan, i T-Rex, tutta quella ondata glam di cui vi parlo spesso, che insomma arrivò nei primi anni 70 in Inghilterra, e più che altro loro, ecco, già avevano sperimentato questo tipo anche di violenza, perché in realtà fu un'ondata anche per certi versi che scombinò l'epoca. Già negli Stati Uniti, già qualche anno prima. E i New York Dolls avevano questa estetica, potremmo chiamarla glam, nel senso che effettivamente era molto androgina, molto queer, in tempi in cui ancora tutto ciò aveva da avvenire in qualche maniera. Perlomeno c'era, ma non si poteva mostrare così in pubblico e così nei canali mainstream. E loro lo fecero in maniera probabilmente parecchio più inconsapevole rispetto al glam britannico. Probabilmente la loro non era una volontà di cambiare i costumi, ma di fatto lo fu. Forse fu qualcosa di inconscio, chissà. Fatto sta che influenzò tutta la musica a venire e anche un bel po' di cultura giovanile, non di quel periodo e anche nei periodi successivi, con quel misto incredibile di musica glam, sì, che quindi riprendeva il rock and roll, un po' lo rimaneggiava, lo rimodernizzava, e quella voce invece così roca, così strana, così violenta, per certi versi aggressiva, che poi sarà quella del punk, e che i punk e le punk vedono per la prima volta, ascoltano per la prima volta, grazie ai New York Dolls. Quindi David Jensen, niente, ci ha lasciato, e po non potevamo non fargli un omaggio. Jimmy Galapagos oggi non è qui con me, ma so che riderà ascoltando questa puntata, pensando a che, certo, tutte le volte parliamo di morti, e d'altra parte non è colpa nostra se se ne va un sacco di gente bella e notevole, rimarchevole. L'omaggio a David Johansen, anche se ce ne sarebbe da dire molto di più e da ascoltare molto di più, però finisce qui perché oggi volevamo parlarvi di Draghi, come dicevo in apertura. Quindi ho guardato, ho cercato moltissimo, ma né i New York Dolls né David Johansen ha parlato di Draghi nella sua musica, almeno io non l'ho trovato. Quindi abbiamo appunto fatto una sorta di incipit un po' a sé stante, e adesso invece entriamo a raccontarvi tramite la musica, i draghi e tutto il loro mondo, e lo facciamo partendo da un brano assolutamente metaforico e figurato, perché è quello dei Jefferson Starship, con Dance with a Dragon, che in realtà, a dispetto di altre tracce che ascolteremo più in là, invece parlano di una metafora, usano il drago, che come vedremo è un animale fantastico, una creatura che però ha veramente spaziato, è veramente ha dilagato un po' in tutte le culture degli esseri umani di tutti i tempi, di tutti i luoghi, e loro ne fanno, utilizzano questa figura per invece parlare degli orrori della seconda della guerra in Vietnam, scusate. In particolare, qui si tratta di un album, Dance with the Dragon, che è stato pubblicato nel 76 da Jefferson Starship. Jefferson Starship derivavano suonano da Jefferson Airplane, come un po' suggerisce anche il nome, gruppo Jefferson Airplane, che probabilmente non ha bisogno di presentazione, una psichedelia molto politicizzata degli Stati Uniti degli anni 60, inizio anni 70. Qui siamo nel 76 e la formazione Jefferson Starship fanno uscire questo album. Scusate, prima ho sbagliato il nome dell'album. L'album si chiama Spitfire, è il brano che si chiama Dance with the Dragon, e l'album esce come una sorta di commento, di mega racconto e commento sulla guerra nel Vietnam e soprattutto sugli effetti collaterali, potremmo dire, o di fatto gli effetti postumi che ha avuto nella società americana, la società degli Stati Uniti. E di fatto il drago qui viene usato come un riferimento alla macchina da guerra americana, che dà fa sia paura, spaventa, e dall'altro lato in qualche maniera viene usato come simbolo di cui essere fieri, no? Il drago, come si vedi, esempio di forza, ma in realtà ti terrorizza anche. Quindi questa è The Jefferson Starship, come dicevamo, Dance with the Dragon. We'll be right back. won't you come near me whenever you can? Dire, diciamo, completamente la questione drago e le sue varie declinazioni nel mondo umano dalla notte dei tempi, effettivamente probabilmente vorrebbe dire dove stare qua 16.000 ore con 40 serie di puntate, quindi ovviamente non posso farlo, anche perché in realtà quando si parla di draghi parliamo di qualcosa di abbastanza scolpito nella nostra mente, quindi insomma in fondo non è che devo svelarvi un granché. E del resto vi è abbastanza facile approfondire la questione aprendo un motore di ricerca e provando a indagare un po' da sole. Però effettivamente quello che mi colpiva è che, così scartabellando un pochino nell'internet, si capisce che il drago è un qualcosa che, cioè una creatura che effettivamente è stata descritta e ha popolato l'immaginario degli esseri umani da veramente dall'antichità e soprattutto in qualunque angolo della Terra. Probabilmente noi conosciamo e possiamo enumerare solo alcune delle culture che parlano, che hanno leggende, che hanno storie, che raccontano i draghi, ma altrettante ce ne saranno che magari non abbiamo censito. Effettivamente una delle teorie più accreditate è il fatto che quando si inizia a parlare di draghi o si inizia a descrivere i draghi, si aveva in mente dei fossili di dinosauri probabilmente, o comunque dei resti di dinosauri, o che comunque si vedevano si aveva preso a modello delle creature come i varani, per esempio, alcune creature che anche adesso esistono o comunque hanno vissuto per molte centinaia di anni e che in qualche maniera evidentemente ci hanno influenzato nell'immaginare questa e nel descrivere questa creatura. Di base quasi tutte le culture rappresentano il drago come un essere affine ai rettili o un serpente o comunque qualcosa di rettilato. Poi lo vedremo, ci sono vari tipi di draghi, alcuni hanno le ali, alcuni hanno le zampe, alcuni hanno la coda, alcuni sono lunghissimi, altri invece più piccoli e tozzi, molti sputano il fuoco dalla bocca, ma non tutti, attenzione, insomma, un po' ognuno ruota intorno a questa figura e se la immagina e se la plasma, ma ci sono sicuramente alcuni tratti molto in comune. Sicuramente avrete in testa tutte le varie storie bibliche che riguardano e comunque storie cristiane che riguardano San Giorgio il Drago e tutte le leggende intorno al drago che vengono tradotte dalla cristianità. Non ci interessa in questo momento approfondire queste. Parleremo magari invece dei draghi cinesi, dei draghi giapponesi e altri, ma sappiate che ci sono moltissimi altri draghi, ci sono nell'America Latina, ci sono nel mondo arabo, veramente ovunque. Così, giusto per fare una infarinata e una spolverata delle varie tipologie di draghi, sappiate che ci sono sostanzialmente varie specie di draghi. Un drago, se possiede grandi ali e non ha le zampe, per esempio, è un anfittero. L'anfittero è un drago che vive nella Mesoamerica e che è chiamato il serpente piumato e è ricoperto da piume. Invece un drago che ha due gambe ma non ha le ali si chiama Lindorm. O Lindworm, sono dei draghi che solitamente trovate sugli stemmi araldici, sugli scudi un po' medievali generalmente, più dell'Occidente, più dal nostro lato del mondo in cui ci troviamo adesso. Gli Zealand sono dei draghi invece con le ali e con due zampe. E questi sono anche questi animali araldici, li trovate nei dipinti medievali, rinascimentali europei. Poi invece ci sono le viverne, che hanno una coda serpentina e uncinata, ma è molto più grandi. Poi ci sono i draghi, quelli un po' più noti anche a noi, come i draghi occidentali, che invece hanno quattro zampe e due ali. E invece quelli con quattro zampe ma che non hanno ali sono invece chiamati come draghi orientali. Questo almeno è la nostra dicitura, poi penso che altrove la penserebbero diversamente. Poi ci sono le idre che troviamo nel mito di Ercole, per esempio, ovvero dei draghi con più teste. C'è un drago di cui non avevo mai sentito parlare, che è l'Anfisbena, che è un drago senza ali né zampe, oppure in alcune raffigurazioni con due zampe e che ha due teste. E poi c'è il Knacker, che è un drago d'acqua dagli arti piccoli che striscia e non può volare perché ha delle ali, sì, ma sono troppo corte, quindi non gli servono a niente. Continueremo a indagare ulteriormente i draghi, ma nel frattempo vi faccio ascoltare un altro brano che si chiama Puff the Magic Dragon. Qui, se prima parlavamo di cose drammatiche, adesso cambiamo completamente registro. La canzone è di Peter, Paul e Mary, e quindi già entriamo nel mondo del vabbè. Narra la storia di un draghetto di nome Puff e del suo compagno di giochi che si chiama Jackie Paper, ed è un bambino che una volta cresciuto perde interesse nel mondo fantastico immaginario delle avventure di infanzia e lascia da solo Puff. Una storia tristissima. Se andate, vabbè, potete trovare il video e vabbè, vi verrà da piangere probabilmente. Nel 69, in realtà, quindi abbastanza in contemporanea con l'uscita di questo ottimo brano, Newsweek, veramente delle persone malfidate e così cattive hanno suggerito che la canzone potesse essere in realtà un inno al consumo di marijuana, ma gli autori hanno ripetutamente smentito la leggenda, hanno detto no, ma siete matti, ma non ci sarebbe mai venuto in mente. Valutate voi, questo è Puff the Magic Dragon. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff, the magic dragon, lived by frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more, and Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. piru piru tipico del math rock, era dei Covet, un gruppo californiano. Questo era un album in particolare del 2018. Il brano si chiamava Sea Dragon. E beh, sì, un po' era il riferimento è nel nome stesso del brano, e un po' perché se l'ho andata a cercare questo pezzo accompagnato da un video con un drago cinese che vaga da solo per la città. E questo ci dà lo slancio per poter introdurre i draghi cinesi che, come dicevo prima, ci interessa magari di più approfondire rispetto al noioso e banale drago medievale al quale siamo più abituate. Il drago cinese, non mi chiedete di pronunciarvelo in cinese perché non sono assolutamente in grado, è chiaramente la fa abbastanza da padrone nella mitologia cinese in generale, sia di quella antica sia di quella più moderna, diciamo, anche se pare che nell'ultima mitologia, diciamo, nell'ultima iconografia moderna un pochino sia caduta in disuso, ma insomma non pare a vederla da qua. È l'incarnazione del concetto di Yang, il drago cinese, lo spirito fecondo e creatore, rappresenta in quanto tale il lignaggio genetico familiare, diciamo. Pare abbastanza simile a quello che per noi è il genius, lo spirito della famiglia dei romani, dell'antica religione romana, che fra l'altro negli altari romani appunto era rappresentato da un serpente, guarda un po'. Generalmente viene rappresentato come un animale enorme, colossale, fino a centinaia di chilometri, cioè che avrete in mente l'iconografia del dragone cinese che si slancia nel cielo in mezzo alle nuvole e sono chilometri e chilometri di drago. E ha un corpo di serpente, quattro zampe di pollo, questo non lo sapevo, la testa di coccodrillo e dei baffi simili a quelli di un pesce gatto. E poi c'ha questa criniera e delle corna da cervo. E poi chiaramente questi sono gli elementi un po' più ovvi, insomma più classici, poi ci sono varie variazioni. Per lungo tempo è stato un simbolo di buon auspicio nel folklore cinese, come dicevamo, in realtà piuttosto in contrasto con quello del drago occidentale, che invece anche prima della diffusione del cristianesimo aveva dei connotati negativi. Quantomeno spaventosi, nel senso che molto spesso i draghi in varie culture, devo dire, non solo quelle occidentali, ma sicuramente in molte culture europee, hanno la funzione cioè vengono messi a guardia di tesori, di qualcosa di prezioso che va difeso. E quindi l'eroe, l'eroina, beh, chiaramente l'eroe maschio, ovviamente, di turno deve sconfiggere questo drago, questa creatura potentissima, generalmente raffigurata come malvagia, che di base deve star lì a difendere un tesoro. La cultura cinese in realtà non ha niente di tutto ciò, e anzi, il drago cinese è propiziatorio, è un animale, una figura che quando arriva porta con sé qualcosa di estremamente positivo, insomma, è un po' il Deus ex machina che arriva e risolve anche le situazioni. E tant'è che i cinesi pregano il drago nei momenti di siccità perché è un, co così come molte culture asiatiche lo vedono come un animale, una creatura legata all'acqua e lo considerano il padre della loro civiltà, tant'è che spesso i cinesi in passato insomma, parlavano di se stessi come discendenti del drago. E tra l'altro ed è stato per lungo tempo simbolo dell'imperatore. E si riteneva che al momento della morte l'imperatore stesso rivelasse la sua vera natura di drago, liberando il proprio spirito, e quindi dalla morte del drago, dal il corpo, questo guscio esteriore del corpo umano dell'imperatore, si librasse finalmente libero un drago che, svincolato un po' da queste catene terrene, finalmente ascendeva al cielo e vegliava anche sulla città e sull'impero. I dragoni cinesi si riproducono fecondando una perla, che generalmente nella raffigurazione classica viene tenuta in bocca, nelle fauci del drago, e in seguito questa perla si schiude dando alla luce un nuovo drago. E questa perla è proprio l'essenza dello spirito del drago, e questo viene ritrovato in moltissime iconografie, in moltissima anche cultura pop poi. Questo era il drago cinese, e invece quella che ci stiamo per ascoltare è Tori Amos, perché anche lei in fondo merita di stare in questa povera scaletta sui draghi, perché ha scritto un brano in realtà che c'entra poco con i draghi, molto triste come suo consueto, che si chiama però Dragon. Com'è triste vivere da draghi quando esistono i cieli azzurri, i prati in fiore e il canto degli uccelli. Oh, potenza dell'acqua che svilisce l'atavico fuoco distruggitore. Io ripudio la mia natura di drago. Voglio soffocare il fuoco che arde nel mio petto per sempre. Illuso! Drago sei e drago resterai! Io diventerò il pompiere. Diecimila sterline incenerite da un piccolo drago. Oh, figlio mio, vieni tra le mie braccia. Papà, lasciami perdere. Testa matta, perché hai voluto fare le cose di nascosto a tuo padre? Perché? Papà, sta zitto, per favore. Zitto? Io voglio urlare a tutti la mia felicità. Esultate! Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere. E non potevamo non mettere Grisù, il nostro paladino di tutti noi giovani scapestrati che non vogliamo seguire le orme dei padri e che ostinatamente decidiamo di prendere un'altra strada. Grisù, il draghetto pompiere, che tra l'altro guardavo, non ricordavo ovviamente assolutamente, e così in realtà è pieno di riferimenti culturali pop veramente splendidi. Vi invito a ritornare a riscoprire, o se siete così pischelle da non ricordare, cioè da non averlo proprio mai visto, non sapere di cosa stiamo parlando, scoprirlo per la prima volta. Insomma, molto interessante Grisù, il draghetto pompiere. E parlavamo di draghi cinesi, ma in realtà i draghi cinesi hanno influenzato molte altre culture limitrofe, potremmo dire, come per esempio quella, la cultura nipponica, perché i giapponesi avevano in realtà già un presente nella propria mitologia il drago, ma pare che a un certo punto l'incontro con la commistione, insomma, con la cultura cinese le abbia molto influenzati, e di base la creatura, il drago giapponese, risente molto del drago cinese, ecco, di fatto presenta molti elementi simili ed è stato un po' cambiato nel tempo e di fatto assomiglia molto di più alle leggende anche che narra la cultura giapponese, assomigliano molto a quelle dei draghi cinesi. E i miti fondamentalmente sono fusioni, come dicevo, di leggende locali con quelle, con leggende che sono state importate dalla Cina, ma anche dalla Corea e dall'India. Di fatto, come spesso ci è capitato di dire sia in questa trasmissione ma in altre su Radio Wombat, non esiste una cultura ufficiale chiusa a compartimento stagno, ma molto spesso le leggende, le storie, i racconti fanno parte di fusioni, appunto di misti e di mescolanze che arrivano un po' da ovunque, ed è bello così. Per esempio, qui per quanto riguarda il drago giapponese, di fatto la maggior parte dei draghi giapponesi sono divinità dell'acqua, anche queste, e anche lì si torna alla questione del... chiaramente si tratta qui, in questo caso, per quanto riguarda il Giappone, si attinge alla tradizione animista, quindi a raffigurare dei, cioè vedere dei in un po' tutte le cose del mondo, quindi i corsi d'acqua, le montagne, gli animali e un po' tutto quello che vive sulla terra. E così anche i draghi sono delle divinità, di fatto divinità dell'acqua, associate sia ai corsi d'acqua ma anche alle precipitazioni, e generalmente, così come quelli cinesi, sono tipicamente rappresentati come delle grandi creature serpentine che non hanno le ali ma hanno dei grandi artigli, e poi questo muso in realtà molto molto buffo, molto bello, un po' da cane, con questi baffoni invece un po', come dicevamo prima, da pesce gatto volendo. E ci sono moltissime divinità, moltissime creature mitologiche giapponesi intorno, che sono di fatto dei draghi. Raccontarveli sarebbe veramente difficilissimo. C'è Ryuin, il dio del mare, c'è Yamata no Orochi e la spada sacra del Giappone, un'altra leggenda tipica di un drago con 8 teste e 8 code. E ci sono moltissimi templi e santuari dedicati ai draghi in Giappone attualmente anche. E quindi insomma ce n'è un miliardo e vi invito ad andarvelo a vedere. E tra l'altro potete trovare anche delle raffigurazioni di draghi e di leggende legate ai draghi giapponesi meravigliose nel Likyue e in generale nell'arte per esempio di Hokusai e di tantissimi altri disegnatori, chiamiamoli così, del intorno all'Ottocento giapponese. E ora però il tempo non è tantissimo e quindi basta dilungarci troppo sulle varie leggende intorno ai draghi e continuiamo con un po' di musica, in particolare con i Blue Oyster Cult, che nell'83 hanno fatto uscire questo Dragon Lady. Blue Oyster Cult, che dire, generalmente vengono definiti un gruppo metal, ma mi sembra abbastanza riduttivo e strano e forse non li rinchiudere in questo genere, ma insomma anche qua lascio il giudizio a voi, perché forse in casa la regruppi nei generi è veramente poco interessante. Across the ora torniamo un po' più serie perché ci ascoltiamo un pezzo di Ahmed Fakhroun, Drago, per l'appunto si intitola esattamente così, ed è Ahmed Fakhroun, un musicista libico considerato un diciamo pioniere, per come piace chiamarlo, della cosiddetta Arabian World Music. Anche qui World Music è un termine veramente particolare, diciamo, bizzarro, però ecco, avete capito cosa si intende. E, di fatto ha fuso la musica Rai, che è un tipo di musica classica algerina che si fa risalire più o meno agli anni 20 del Novecento, e l'ha fusa con la disco music, quindi è effettivamente un tipo di musica molto particolare. Lui a un certo punto è diventato piuttosto famoso, non soltanto in Libia o in altri paesi arabi, ma anche un po' nel mondo europeo, e più recentemente ha pubblicato un remix che è chiamato Drago, che è una collaborazione con Mood, ovvero Paul Murphy, e prodotta da Clermont 56, non so se in realtà si dice Clermont, magari francese, chissà. Fatto sta che questa, appunto, che ci ascoltiamo adesso è per l'appunto Drago. Thank you. Cooper tocca, cioè per forza. Tra l'altro ho l'impressione che non vi ho ammorbato sufficientemente con Alice Cooper nelle puntate precedenti di Slick Chick. Beh, in tutti questi anni forse ne avrò parlato sicuramente, ma beh, oggi vi è andata così, vi ritocca un'altra volta, perché Alice Cooper nel 2001, quindi anche piuttosto di recente in realtà, ha pubblicato l'album di quel momento del 2001 un brano che si chiama Dragon Town e forse anche omonimo l'album, si chiama proprio Dragon Town, ora non ricordo. In ogni caso, Alice Cooper generalmente, come dire, passa un po' alla storia come un po' una trashata, un re del trash, del cattivo gusto e del pop mainstream. In realtà, secondo me, ha fatto anche cose buone. Agli esordi era degli Scooper, di fatto una band, in realtà si chiamava così, era composta da 5 persone. C'era Cooper, per l'appunto, alla voce, che poi in realtà era accreditato nei dischi come Vincent Fournier, che era il suo nome, e Michael Bruce, Glenn Buxton alla chitarra e Dennis Dunaway al basso e Neil Smith alla batteria. Poi a un certo punto, in realtà, come sappiamo, di fatto tutto si riduce a una persona, anche se ovviamente sempre di band si trattava, ma Alice Cooper diventa poi, incarna poi un personaggio. Come sapete, insomma, è diventato famoso Alice Cooper per avere un po' portato, unito il glam di quegli anni, e torniamo un'altra volta al glam, però una tinte molto horror, tinte da gran grignol, di grignol, ho detto delle cose stranissime, vabbè, avete capito. Grandi animali horror in scena, cioè cantava con un boa vero al collo, il boa non quello di piume ma il boa proprio il serpente, insomma qui gli antispecisti avrebbero da ridire, giustamente, probabilmente il sindacato degli animali pure, perché non immagino non siano stati minimamente pagati né consultati gli animali per venire sfruttati in questo modo. Fatto sta che Alice Cooper era famoso appunto per fare questi concerti che di base erano dei grossi show horror, e però c'è del buono in tutto questo, perché effettivamente scioccò molto la società in quell'epoca, e in un'intervista racconta un po', in una delle tante interviste racconta come, da dove arriva un po' questa estetica, da dove è venuta un po' questa idea. Allora effettivamente abbastanza c'erano degli altri esempi, si era nell'epoca dello shock rock, veniva definito così, e c'erano altri come Alice Cooper che insomma sperimentavano anche in questo senso, però era abbastanza pioneristica la cosa. E Alice Cooper in questa intervista dice: uno dei miei film preferiti, uno dei film preferiti della band era Che fine ha fatto Baby Jane, con Bette Davis, che in quella pellicola aveva spalmato in faccia e sotto gli occhi un trucco disgustoso incrostato, lo ricorderete peraltro, con un eyeliner nero carico e spesso. Quel trucco così abbondante e malfatto le dava un aspetto orripilante. Un altro film che guardavamo in continuazione era Barbarella. Uno dei personaggi, The Great Tyrant, era interpretato da una formidabile attrice europea, Anita Pallenberg, che indossava vestiti di cuoio e una benda da pirata, oltre ad avere lame che le uscivano dal corpo. Il look di Alice Cooper si sviluppò come una combinazione di quei personaggi cinematografici femminili, con in aggiunta un piccolo tocco della Emma Peel di The Avengers. E in effetti, questo era, e di base fece un po', insomma, un bel casino, tanto più che la maggior parte degli artisti glam dell'epoca, se togliamo quelli un po' più interessanti, cioè quelli un po' più profondi, diciamo, come Bowie, Bolan e gli Sweet, altri insomma, di base quelli un po' più mainstream, un po' più che avevano abbracciato il glam tendenzialmente più che altro per sfondare, trattavano tematiche generalmente sentimentali, poco oltre. E invece Alice Cooper aveva, nei suoi testi trattavano argomenti sempre solo che riguardavano morte, tortura, necrofilia, zombie, personaggi che hanno a che fare comunque in qualche maniera con l'horror. E quindi, insomma, tutto ciò, tutta questa espressione musicale e culturale che evidentemente ti sbatteva in faccia un'inquietudine, un'ansia e per qualche modo una rivendicazione di tempi che si volevano descrivere come sereni e che sereni non lo erano minimamente. Ecco, tutto ciò chiaramente scioccò un po' le belle anime, le anime belle, e portò alla band varie accuse, diverbi, associazioni puritane negli Stati Uniti che si strapparono le vesti, insomma tutto quello che ci possiamo immaginare. E quindi, per rendere un po' omaggio e forse in qualche maniera riscoprire il povero Alice Cooper, ascoltiamoci Dragon Town. Come on, you madonna, ma era brutto sto pezzo. Rifacciamoci un po' la bocca con i prossimi tre brani, che poi sono anche gli ultimi della scaletta di oggi di Slick Chick dedicata ai draghi. E il primo di questi tre pezzi è degli Sleep, meravigliosi Sleep, gruppo che hanno, per così dire, un po' quasi inventato, sicuramente ampliato e portato avanti tantissimo il genere stoner, anche un po' il doom e tutte quelle affini sfumature che ci stanno intorno. E gli Sleep nel secondo album, ovvero Sleep's Holy Mountain, il primo brano che proprio apre questo album, si chiama Dragonaut, è stato pubblicato nel 92, sono un po' gli anni d'oro degli Sleep. E questo album in particolare è un album bellissimo, e il testo anche di Dragonaut è un po' questi testi in stile pieno stoner doom, che come saprete generalmente raccontano creature o cavalieri, o anche non necessariamente cavalieri, che però errano, vanno, vagabondano in deserti, in paesaggi naturali. C'è sempre in qualche modo un andare avanti, un muoversi e un incedere. E qui gli Sleep parlano di un dragonauta, per l'appunto, quindi di qualcuno che cavalca un drago. E il testo dice: cavalca il drago verso l'occhio cremisi, sbatti le ali sotto il cielo rosso di Marte. Il rettile si spinge fuori nello spazio, lasciando indietro la razza umana. Nuota nei mari solitari, le nuvolose mi gridano, passando da dove sono stato prima. Volo attraverso la porta cremisi, cavalca il drago verso l'occhio cremisi, sbatti le ali sotto il cielo rosso di Marte. gestione del tempo, dei tempi. In questo brano invece è qualcosa di veramente meraviglioso e siamo quasi in chiusura di Slick Chick. Due brani ci rimangono a separarci dalla notte di Radio Wombat e Jessica Dragonet. Jessica Dragonet era una... beh, in realtà si chiamava Jessica Valentina Dragonetti, questo era il suo nome per intero e non è nome d'arte. Nasce nel 1900, il 14 febbraio in particolare, e muore nel 18 marzo del 1980. Era una cantante di base che, come vedremo, più che altro rimase famosa per il suo lavoro radiofonico. Nasce a Calcutta, ma poi si sposta negli Stati Uniti. Era una lavoratrice di quelle un po' dietro le quinte, a volte letteralmente, nel senso che cantava le voci fuori campo nei film, e inizia i suoi primi passi così. E poi finisce in radio e nella prima metà del Novecento in radio, tutta la prima metà del Novecento in radio si suonava con le orchestre, orchestre più o meno grandi. C'era un modo di fare radio completamente diverso da quello degli ultimi decenni, ovviamente, e quindi c'erano tutta una serie di musicisti e cantanti che di fatto lavoravano in radio. Erano delle star per certi versi, nel senso che suonavano tanto quanto i musicisti live, ma il loro lavoro consisteva nel suonare davanti ai microfoni, dietro ai microfoni e dietro, insomma, una regia in radio. E questa cosa succedeva praticamente tutti i giorni e insomma un lavoro anche piuttosto duro e piuttosto complesso, perché di fatto dovevi cantare e suonare praticamente in continuazione tutto il giorno. E si cantava dal vivo, si suonava dal vivo, come dicevo. E Jessica Dragonet era una cantante in particolare di operette e di musica semiclassica, che grazie alla radio diventò piano piano un genere molto popolare, e la sua voce veniva a un certo punto piano piano, man mano che si diffondeva, venne ascoltata da mezzi Stati Uniti, di fatto da mezza America, e veniva considerata quasi un'amica. Molti la definivano un'amica perché la sua voce di fatto si teneva compagnia, come spesso succede con le voci radiofoniche, e lei con la sua presenza continua in radio lavorava in tantissimi programmi di moltissimi tipi, e quindi insomma di fatto era una voce che ti accompagnava nella tua quotidianità continuamente. E quindi la sua popolarità, cioè per questa sua popolarità, finì come tante a cantare per rallegrare, diciamo così, le truppe durante la Seconda Guerra Mondiale, anche perché come tante artiste peraltro di quegli anni sapeva cantare, oltre che in inglese, impeccabilmente anche in tedesco, in francese, in spagnolo, in italiano e in russo anche. E quindi insomma chiaramente la mandavano a fare anche questo bel lavorino in giro per il mondo, abbastanza letteralmente in trincea. E c'era anche una piccola curiosità che a me colpisce sempre molto ricordare, che all'epoca non si... non si stampava, non c'era l'abitudine di stampare gli spartiti, le partiture, per cui a un certo punto è stato fatto un conto che lei di fatto ha memorizzato all'incirca 75 opere e più di 500 canzoni. Memorizzato significa non soltanto il testo ovviamente, ma tutta la partitura, almeno la sua parte, quindi tutta la melodia che doveva cantare. D'altra parte quegli anni si faceva così, anche molti cantanti famosissimi, ma lo stesso Pavarotti, avevano un'abilità mnemonica per noi probabilmente abbastanza incredibile. E questa quindi ve la faccio ascoltare, si chiama, come dicevo, Jessica Dragonet, ovviamente qui non si parla di draghi, ma il drago sta nascosto nel suo nome, nel cognome più che altro, e il brano è Kiss Me Again. Shining softly. puntata di Slick Chick si chiude qua. Ringrazio gli studi di Radio Onda Rossa che mi hanno ospitato in trasferta, e però non possiamo chiudere se non lasciandovi con un ultimo brano che vi accompagni verso la buonanotte. E questo brano è affidato a The Geraldine Fibbers, che sono un gruppo degli anni 90 che vengono definiti, visto ovunque, un po' come alternative country, ma cioè mi sembra una definizione veramente senza senso, soprattutto se li ascoltate. La cantante è Carla Bozulic, non lo so leggere, perdonatemi, una newyorkese del Greenwich Village che a un certo punto inizia negli anni 70-80 inizia a peregrinare, andarsene in giro per il mondo e scopre la musica, canta, suona e cerca un po' di trovare la sua strada. Ma a 20 anni la troviamo prostituta, disperata, abbastanza a caccia di soldi per farsi di eroina, e entra un po' in un abisso abbastanza pesante, molto pesante, di violenze e tanto tanto dolore. E a un certo punto, per varie ragioni che non ci è dato abbastanza sapere, a un certo punto si riprende, si ripiglia, e tra l'altro racconta lei stessa, ascoltando Mahler, grazie alle sinfonie di Mahler, che in qualche modo, per strani motivi, probabilmente per strane vie, la salvano, e inizia a suonare per davvero con una serie di progetti molto diversi tra loro. Si va dall'industrial a quel alternative post-punk melodico degli anni 90 che ascolterete nei Geraldine Fibbers, e poi mille altri stili, sperimentazioni da solista. Lei è andata avanti e va tuttora avanti con tantissima musica molto diversa l'una dall'altra e molto interessante spesso, ma devo dire che quello che rimane la costante è quell'amarezza di fondo e una voce roca che ne ha viste tante, un po' alla Marianne Faithfull. E con questo vi diamo la buonanotte. I Geraldine Fibbers ce li ascoltiamo tramite la scusa del nome di questo brano che si chiama Dragon Lady. Vi do la buonanotte appunto e ci risentiamo tra 2 settimane o la settimana prossima se preferite, con Le Porte di Tannhäuser, o altrimenti tra 2 con Slick Chick. Ciao ciao! Be roused. She was kissed by pigs and